Capitolo sesto. Il rispetto della vita, della proprietà e dell'onore. Disse l'Apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la gloria, per un musulmano la vita, la proprietà e l'onore di un musulmano sono inviolabili.